Io non vi invidio punto, angeli santi, le vostre tante glorie e tanti beni, perché i diletti miei sono tali e tanti, di cui convien che sempre scriva e canti. La notte non dormo. Perché i diletti miei sono tali e tanti, Oh poesia, poesia, poesia. di cui convien che sempre scriva e canti. Quando mi doglio sfaccio. Scrivo cosa? Non so, col sangue alle dita, scrivo. Io non vi invidio punto, angeli santi. Nella notte voluttuosa. Scrivo cosa? Non so, ho il sangue alle dita, scrivo. Perché i diletti miei sono tali e tanti, Oh poesia, poesia, poesia. di cui convien che sempre scriva e canti. La notte non dormo, ogni senso mi intrico, fusca e sfolza. Lo stile, la lingua, l'ardire e l'ingegno, i pensieri, i concetti e i sentimenti. Oh poesia, poesia, poesia. O restan tutti oppressi, o tutti spenti, e quasi muta e stupida divegno. Io sia Basta che io non so mai formar parola, sì quel fatale mio divino aspetto. Io sia La forza insieme l'anima mi invola. Ciao, biondina dorata! Lo stile, la lingua, l'ardire e l'ingegno. O restan tutti oppressi o tutti spenti, e quasi muta e stupida divegno. Io t'amo, vecchia Troia. Oh, mirabil d'amore, raro effetto, c'una sol cosa, una bellezza sola, mi dia la vita e tolga l'intelletto. O Troia incommensurabile, ed amo le tue pose schife. Nell'umiltà scheletrica delle membra terre, io sia Vostra svisceratissima. D'un tratto l'anima è innalzata in Dio a tale letizia, a cui pensando sol mi snervo e spolpo, onde mi struggo e dardo, che se durasse il corpo perderebbe tutti i sensi e verrebbero meno le sue membra. Ed in guai si converte ogni mio gioco, e quasi muta e stupida divegno. Me furiosamente etero eterea, mi aveva preso l'amore evanescente. Ombretta sdegnosa del Mississippi, non farla ritrosa, ma baciami qui. Ti parlo in questo strano modo per darti l'imboccata, nulla più. Contro me sola ho peccato, e vi chiedo di perdonarmi se io vi amo in dolore. Vostra svisceratissima. Mi fu dato, e con tale intensità, un desiderio di espropriarmi, che quasi ad eco immagine simile. Di donna serbo sol la voce e il nome. Oh poesia, poesia, poesia. Ed in guai si converte ogni mio gioco. L'anima è innalzata in Dio a tale letizia che se durasse per chiarsi ed ardo ancor canto e cantai. Oh il tuo corpo. Oh, il bello e dolce dono di un Dio. Il corpo perderebbe tutti i sensi e verrebbero meno le sue membra. Io adoro la gaiezza che fa tremare. Quando mi doglio e sfaccio. Corpo ondulato. Io, Troia notturna, adolescente di luce, me n'andavo senza amore. Ciao, biondina dorata! Lacrime e dolcezze, tremori e grida. Ma pur essendoci in quel frangente lacrime e dolcezze, tuttavia non nascono dentro nell'anima, ma sgorgano dal corpo. Quell'amore non giunge dentro nell'anima. Ho provato in me tutto ciò. Dolcezze estreme, dolcezze estreme, dolcezze estreme, dolcezze estreme. Lacrime, dolcezze, tremori e grida, tuttavia non nascono dentro nell'anima. Quell'amore non giunge dentro nell'anima. Corpo ondulato. Tuttavia non nascono dentro nell'anima lo stil, la lingua, l'ardire, l'ingegno, ma sgorgano dal corpo. Quell'amore non giunge dentro nell'anima. Ho Ho provato in me tutto ciò. O il tuo corpo. E avevo sete di vedere quella parola almeno nella sua forma scritta. Oh, poesia, poesia, poesia. Ed in guai si converte ogni mio gioco. Ho provato in me tutto ciò. E avevo sete di vedere quella parola almeno nella sua forma scritta. Il corpo dell'uomo si tende e distende. Un balocco formidabile di raziocinio umano. Irraggia la sua volontà pei cieli. Tremano sulle scranne barocche i monarchi belluini. Si sfiancano troni ed altari cementati di sperma. Purifichiamo le donne sotto del peso dei mari. La notte non dormo. Ma sgorgano dal corpo. Quell'amore non giunge dentro nell'anima. Ho provato in me tutto ciò. Io mi sto impietrata di sangue. Tu magra e sola con i tuoi capelli sei restata. Io magra e sola con i miei capelli sono restata. Sulle tue spalle magroline e gialle i capelli vorrei veder danzare. Sei pura come il suono e senza odore. Pura come il suono e senza odore. Un tuo bacio è acerbetto e sorridente e doloroso. E l'occhio è rilucente. È troppo bello l'occhio, è perditore. I tuoi capelli sulle spalluccine. I miei capelli sulle spalluccine. Ami i profumi. E perché vai vestita di sangue? E perché vado vestita di sangue? Ami le chiese. No, tu temi i profumi. Il corpicino. No, io temo i profumi. Il corpicino. È troppo fine. È troppo fine. Oh, se potessi vederti agitare. Mille volte, signor, muovo la penna. La tua animuccia tagliente tremare. Io adoro la gaiezza che fa tremare. E i tuoi occhi lucenti arrotondare. Io troia notturna, adolescente di luce. Io sì, accento pellicata. E non lo puoi amare. E non lo posso amare. Christus vicisti, l'avorio del crocifisso, vince l'avorio del tuo ventre. L'avorio del mio ventre. Io non trovo più rime, non te più possa. Che sapore avranno le tue lacrimucce, le mie lacrimucce? Lacrime e dolcezze, tremori e grida. Povera bimba, come ti calunnio. Come mi calunni. Perché hai i capelli tragici. Perché ho i capelli tragici. E ti vesti di rosso e non odori. E mi vesto di rosso e non odoro. Ciao, biondina dorata! Ad ognuno essa appare come la sua amata.